Buonasera a tutti. You're fooling nerds.

The skies are peaceful above. Bring the beautiful ones again. We know the wonder of the magic power of love. Of the Maria, basta in mezza via, seduto pa' vedere. Non trovo l'ora e pace, ma la te faccia giorno, sempre che sta attorno, sperandoci a parlare. Oi Marie, quanto suon che perdo per te, fammi dormire, nata volta abbracciata con te. Oi Marie, quanto suon. La senghe feneste, Marie, una manella, non segna nemmeno fa. Maria sei scettata, una bella serenata, facimmola sentire. Oi Mari, quanta suon che per dove te, mamma dormì, abbracciate un poco tutte. Oi Mari, quanta suon che per dove te, mamma dormì. Oi Mari, oi Mari, oi Mari, oi Mari, quanto suona il capello per te, mamma dormì, oi Mari, oi Mari. Grazie. again. Dream is gone, baby. The dream is gone away for good. Good man should. I'm free now. I'm free to choose now. Free, free, free now, baby. I'm free to choose now. Now that's all I can do. Just wish you were. I miss you. I

Thank you.